Mercoledì 26 ottobre, spazio sociale 100 celle aperte, via delle Resede 5. Cena a sostegno di Radio Onda Rossa. Dalle 20 buffet vegan a sottoscrizione. A seguire, la radio si racconta, un segnale lungo 40 anni. Una radio senza padroni e senza pubblicità, ma anche senza una lira. Nutri la mente, riempi la pancia, sostieni la radio. Mercoledì 26 ottobre, spazio sociale 100 celle aperte, via delle Resede 5. Per info www.100celleaperte.org, www.ondarossa.info.